Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano, il programma che vi racconta quello che accade al di fuori dall'Italia. E lo fa grazie anche a Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Mannati. A darci musica e ritmo ci pensa Andrea Roccabella. Oggi partiremo parlando di Libia, come avete sentito dall'anticipazione delle 13, per cui vi invito fin da subito a porre commenti o domande ai due ospiti che tra poco sentirete. 349-238-6666, vale per gli sms ma anche per i whatsapp, twitter, Nessun Luogo 24, oppure il mio, Giampaz, facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino, Radio 24. Allora, come promesso, parliamo di Libia e andiamo a Sirte. جنوب حلب قال جيش الفتح والمعارضة المسلحة إنهما استعادا كافة المواقع التي تقدمت إليها قوات النظام السوري في كراجات الراموسة والبلدية والدباغات Andiamo a Sirte perché quella che si sta combattendo tuttora, in queste ore, in questi minuti, è una battaglia che potrebbe essere risolutiva, quantomeno per le sorti dello Stato Islamico in Libia. Certamente non per la Libia nel suo complesso, ma su questo punto ci torniamo tra pochissimo. Se siete stati all'ascolto alle 13, avete sentito l'anticipazione, ho parlato dell'importanza della battaglia per Sirte con Arturo Varvelli, ricercatore di ISPI ed esperto di Libia. La prima domanda è stata: che cosa significa Sirte in questa guerra? Sirte, diciamo che è una delle due roccaforti dello Stato Islamico in Libia. La prima era Derna, una città che aveva una tradizione particolare di jihadismo, città dalla quale sono partiti storicamente molti dei combattenti che sono andati sul fronte afghano prima e su quello iracheno poi. Bisogna ricordare che i libici sono tra i maggiori combattenti nelle file di Al-Qaeda, ad esempio. Questa città, Derna, è stata presa, diciamo, da altre forze islamiche, in buona parte radicale, nella primavera scorsa, quindi anche lì l'ISIS è stato scacciato. Sirte è la seconda città che era caduta in mano all'ISIS un anno e mezzo fa e che è sempre stata la città, diciamo, roccaforte dei Gheddafiani, ed è per questo che l'ISIS è in qualche maniera nata e risorta in quel luogo, perché ha trovato all'interno del contesto libico una sponda nei Gheddafiani, un po' come l'aveva trovata con i Batisti in Iraq sostanzialmente, anche se naturalmente su proporzioni molto diverse. Cioè una parte della tribù Gheddafa, la Sirte è la città natale di Gheddafi, bisogna ricordare questo, ha accettato in qualche maniera che l'ISIS trovasse luogo lì come motivazione di vendetta nei confronti dei soprusi che le altre tribù e le altre milizie, più che le tribù, avevano condotto nei confronti dei Gheddafiani nella fase post caduta del regime. E che idea si è fatto del supporto straniero in questa battaglia per la presa di Sirte? Quanto risolutivo è stato? Da un lato abbiamo i britannici, poi abbiamo gli Stati Uniti e abbiamo anche molto ragionevolmente una presenza italiana. Io penso che sia risolutivo soprattutto, come dire, nell'accelerazione di questi eventi. Sappiamo che i misuratini stavano combattendo, sappiamo però che combattere all'interno di una città in un contesto urbano di guerra civile può essere molto lungo, nonostante i combattenti dell'ISIS fossero poche centinaia in questo momento. Diciamo da 6.000 a 5.000 si erano ridotte forse a un decimo. Quindi io penso che prima i bombardamenti hanno dato un impulso, come dire, quasi di coraggio, un impulso morale ai combattenti misuratini e, come dirgli, adesso siamo dalla parte vostra, vi stiamo aiutando, compiete l'ultimo sforzo, e poi naturalmente anche l'appoggio logistico sul terreno io penso che abbia fatto la differenza, anche se naturalmente sono sempre le forze di Tripoli e Misurata che sono in prima linea. Sì. Leggendo le recentissime cronache si apre un'ipotesi, uno scenario, la fuga di molti miliziani appunto dello Stato Islamico verso sud e verso Saba. Sono scenari già visti soprattutto sul teatro libico, no? Dove comunque il territorio è vastissimo, dove il deserto offre, non dico riparo perché non è il termine giusto, però diciamo rifugio, ecco, alle milizie. Questo è uno scenario che lei vede pericoloso, quindi uno spostare semplicemente nel tempo o nello spazio il problema? Sì, è possibile che così avvenga, come è possibile che in qualche misura alcuni di questi combattenti, in buona parte stranieri, perché l'80% sono stranieri dei combattenti dello Stato Islamico in Libia, secondo fonti dell'intelligence internazionali e italiane, e all'interno di questo 80% la metà è tunisina, quindi bisogna considerare anche questo. Possiamo pensare che ci sia, oltre a uno spostamento all'interno del paese con la via verso il sud che rimane probabile, che ci sia anche un nuovo mimetismo, cioè passare da naturalmente un'organizzazione protostatuale a un'organizzazione clandestina con l'avvio di una campagna di attentati, quindi un cambio di strategia. E poi c'è naturalmente anche la possibilità di rientro in patria di alcuni di questi combattenti, e qua accennavo ai tunisini, la cosa deve essere tenuta certamente sotto controllo. Abbiamo visto che i bombardamenti a Sabrata, un altro luogo nel quale vi era un campo di addestramento di jihadisti dell'ISIS, in particolare di tunisini, nel febbraio scorso, ha comportato poi la fuga di questi e il tentativo di rientrare in alcune città tunisine, con un primo tentativo di insorgenza di queste cittadine stesse. Chiarissimo. L'ultimissima domanda, dottor Varvelli, il passo successivo. Allora, c'è stato un coinvolgimento militare, logistico, di appoggio appunto di alcuni paesi. Adesso che cosa dovrebbe fare, soprattutto l'Europa? L'Europa, ma anche tutti i paesi della regione. Non bisogna mai, diciamo, come dire, sopravvalutare la potenza dell'Europa. L'Europa parla molto spesso ancora con voci divise. Sappiamo che ad esempio la voce più divisiva in questo momento è l'atteggiamento di alcuni nostri vicini come la Francia, che in qualche misura appoggiano a parole formalmente il governo delle Nazioni Unite di Sarraj, e in buona parte anche, diciamo, la diplomazia francese lo fa, il Quai d'Orsay lo fa, ma sappiamo anche che il Ministero della Difesa francese invece ha rafforzato una collaborazione col generale Haftar, che è, diciamo, un'altra fazione. Quindi bisogna che la comunità internazionale parli più chiaramente possibile, e bisogna che le fazioni libiche trovino una sorta di accordo, e poi sono sempre loro, le fazioni libiche, che devono trovare qualche forma di accordo, un nuovo patto sociale duraturo, e tutto ripassa di nuovo sul piano politico della Libia, e questo naturalmente è molto faticoso. Sappiamo che lo Stato Islamico in Libia è un sottoprodotto del caos libico, della situazione di anarchia libica o di semi-anarchia libica. Sì, perché... Quindi è assolutamente questa che deve essere in qualche misura risolta. Quindi tutto passa sul piano politico e deve essere in qualche maniera fortemente implementato da parte della comunità internazionale, delle Nazioni Unite e certamente anche dell'Unione Europea. Perché alla fine, insomma, bisogna far parlare anche Haftar e Sarraj e cercare di ricomporre. Mi pare che non si possa che non passare da questa soluzione. Sarraj e Haftar devono trovare una sorta di compromesso, che può essere anche solamente il beneplacito per il controllo ognuno di un'area, e in qualche misura mettere l'egemonia militare di Haftar sul Cirenaica all'interno di un quadro che possiamo definire più o meno federale, con quale forma poi possono essere i libici a discutere, ma deve essere preservato un governo di unità nazionale e una forma di collaborazione tra queste forze militari e tra queste forze politiche, naturalmente, altrimenti qualsiasi nuova, come dire, venatura, crepatura all'interno del quadro politico di sicurezza viene in qualche maniera riempito. Sarà l'ISIS, potrà essere Al-Qaeda, potranno essere organizzazioni terroristiche, organizzazioni criminali, organizzazioni criminali dedicate al traffico dei clandestini. In ogni caso bisogna che vi sia un ripristino del monopolio dell'uso della forza. La voce che avete sentito era quella di Arturo Varvelli, ricercatore di ISPI, l'Istituto per gli Studi sulla Politica Internazionale, esperto di Libia, che chiude il suo ragionamento dicendo: attenzione, lo Stato Islamico è il frutto di un vuoto, questo vuoto però può essere anche riempito in futuro da altre formazioni se la politica libica non va a riempirlo. Roberto Mongiorni, inviato Il Sole 24 Ore, buona giornata, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno a tutti. Allora, sei d'accordo con questa analisi di Varvelli? Alla fine lo Stato Islamico in Libia frutto altro non è che il frutto di un vuoto, e quindi se si colma politicamente e non solo militarmente quel vuoto, forse c'è un antidoto un po' più definitivo. Ma assolutamente sì, possiamo usare una metafora e dire che il vuoto di potere ha rappresentato un humus fertile, un terreno fertile che ha agevolato l'ascesa dell'ISIS. Questo è fuori di ogni discussione. Il problema però è che troppe volte, la mia posizione sarà forse impopolare, l'ISIS è stato un po' un capro espiatorio per nascondere i veri problemi della Libia, di cui l'ISIS era assolutamente faceva parte, ma non era il solo. Sì. Perché ammesso e non concesso che si riesca a sconfiggere l'ISIS, cosa che io ritengo comunque anche un po' improbabile perché è un po' disseminata dappertutto, a Sabrata ha creato anche alleanze con la criminalità organizzata e si dedica alla tratta di esseri umani, una materia che tu conosci molto bene, Giampaolo. Però ritorno alla domanda: ammesso e non concesso che si riesca a sconfiggere l'ISIS, la Libia si avverrà verso la stabilizzazione? Io ho motivo di pensare di no. Uno dei grossi capitoli che riguarda la Libia è il capitolo energetico. Tu ne hai scritto oggi sul sito del Sole 24 Ore, fra l'altro ne riparlerai in maniera più approfondita perché non è esattamente tema nostro quello strettamente economico, con Vincenzo Migliete in Focus Economia. Capitolo petrolio: chi controlla i pozzi petroliferi, ma soprattutto chi controlla i terminali, a partire da Ras Lanuf, che ricordiamo entrambi, insomma, nel 2011 quanto era conteso, no, tra le truppe di Gheddafi e invece i ribelli che partirono dalla Cirenaica alla conquista di Tripoli. Aiutaci a ricostruire la geografia, diciamo, petrolifera complessa della Libia, per sommi capi. La geografia petrolifera della Libia è tanto complessa quanto sono state complesse le ultime vicende politiche. Possiamo dire che adesso la Libia è nuovamente spaccata in due, perché se prima c'era un governo islamico, Fajar Libia, della coalizione vicino ai fratelli musulmani, e un governo riconosciuto dalla comunità internazionale che si era spostato a Tobruk, la comunità europea diceva, e la comunità internazionale, è il governo di Tobruk l'unico legittimo, l'unico che deve amministrare le risorse petrolifere. Però quelli comandavano la NOC, avevano tutte le strutture da una parte. Cosa è successo? Il paese si è trovato spaccato in due, con due governi, due parlamenti, due amministrazioni e due ministri del petrolio che entrambi volevano partecipare all'OPEC e dire: sono io il rappresentante energetico della Libia. Le cose sono cambiate, ma in sostanza sono rimaste lo stesso, perché adesso la comunità internazionale ha riconosciuto il governo di Fayez Sarraj, ha detto che deve essere il neo governo di Tripoli, di accordo nazionale, a gestire il petrolio, ma di fatto i terminali più importanti si trovano in Cirenaica. E chiudo con un piccolo aneddoto: 3 settimane fa neanche è stato firmato un accordo con i ribelli guidati da Ibrahim Gidran, che sono le guardie delle strutture petrolifere, che si sono messe d'accordo col governo di unità nazionale. Sì. Ha detto: apriamo 3 terminali, Ras Lanuf, Zuetina e Assidra, i 3 più importanti. Subito la NOC, la compagnia petrolifera di Stato, aumenteremo la produzione a 900.000 barili. La Libia adesso ne produce 270.000 in questi giorni. Sì. Ecco che arriva l'alto là dal governo di Tobruk. E no, senza di noi, se non facciamo un accordo, nessuna petroliera attaccherà. E quindi è una situazione molto complessa. Certo. Roberto Bongiorni, oltre nei 3 terminali che stavi citando, oltre ai libici, chi ci sono? Stranieri? Beh, ci sono una serie di compagnie straniere. Questi terminali convogliano il petrolio che viene estratto dai pozzi, però sono soprattutto compagnie, credo che ci sia la Total, poi joint venture con la compagnia NOC, ma l'Italia, l'Eni ha solo un campo in Cirenaica, ne ha quasi tutti invece in Tripolitania. Però fatto sta che pensiamo che la Libia prima della rivolta produceva 1,6 milioni di barili al giorno. La media degli ultimi 3 anni è stata 365.000 barili. Se uniamo il crollo del pezzo petrolifero, è un disastro totale su tutti i fronti. Ed è facile intuire anche che l'ISIS è sì stato un danno alle strutture petrolifere, ma non così rilevante, perché è da 3 anni che la produzione arranca. E quindi per un paese che è petrodipendente, che di petrolio vive, 95% delle entrate governative, il 93% dell'export, è chiaro che il problema deve essere risolto ad ogni modo, forse ancora più urgente della guerra all'ISIS. E quindi, insomma, se posso ben sintetizzare, alla fine l'ISIS è stato il grande alibi, se vogliamo, per non guardare o per rimandare altri problemi. Il problema fondamentale della Libia è questa suddivisione, questa spartizione in due, e mettersi d'accordo sull'economia, che merita assolutamente di essere risollevata. Ricordiamo che in tutto questo risico gigantesco c'è una popolazione, quella libica, che da anni soffre condizioni assolutamente assolutamente poco piacevole. Grazie mille. Roberto Mongioni, inviato del Sole 24 Ore, buona giornata e buon lavoro, Roberto. Buona giornata a tutti, grazie. Allora, questa è la prima pagina di Nessun Luogo Lontano dedicata alla situazione libica. In queste ore si sta combattendo la battaglia per Sirte, che potrebbe essere, lo avete sentito anche dal GR, risolutiva per la battaglia contro lo Stato Islamico in Libia, almeno in quella zona, perché poi altre sacche di resistenza sono in territorio libico e, come vagheggiava Varvelli, ci potrebbe essere il rischio invece di un cambio totale di strategia, con fuga dei combattenti che andranno a nascondersi per poi tentare magari strategie più di terrorismo che di guerra aperta vera e propria. Questa è la pagina libica. Adesso parliamo del nuovo asse, del nuovo valzer, come definirlo, la nuova alleanza, il grande disgelo, insomma l'incontro tra Erdogan e Putin. Bu itibarla bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde siyasi, iktisadi, kültürel ve beşeri alanlarda Türkiye, Rusya prioritet выход на докризисный уровень двустороннего сотрудничества. E così Andrea Roccabella ha voluto in qualche modo raccontarci con i suoni e musicalmente questa rinnovata alleanza, o questo digelo, insomma, chiamatelo come volete, fra Ankara e Mosca. Con quali conseguenze? Questa è la grande domanda chiave, soprattutto sul lungo termine, perché mentre le notizie di cronaca ci consegnano una serie di gialli, ad esempio due colonnelli in fuga, due colonnelli che parrebbero implicati nel colpo di Stato del mese scorso in Turchia, sarebbero stati avvistati, sarebbero fuggiti in Italia, quindi Erdogan dice attenzione, ce li avete voi, quindi siete stati avvisati. E poi questo tuonante messaggio sempre di Erdogan agli Stati Uniti: attenzione, o state con noi o state con Gülen. Gülen è, secondo la tesi di Erdogan, il grande sabotatore, cioè colui che avrebbe ideato il colpo di Stato. Sono tante le domande, ma ripeto, secondo me quella principe è adesso che cosa accadrà con questa rinnovata alleanza. Ed è la domanda che faccio a Valeria Talbot, che è responsabile del programma Medio Oriente e Mediterraneo, sempre di ISPI. Dottoressa Talbot, buona giornata e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Quali sono le conseguenze di questo riavvicinamento? Direi che innanzitutto la Turchia, partendo appunto da una prospettiva turca, già nel mese di giugno aveva apporto delle scuse ufficiali alla presidenza russa per l'abbattimento del jet militare nello scorso mese di novembre. Un gesto significativo e anche una presa di coscienza, di consapevolezza del fatto che la Turchia si trovava sempre più isolata nel contesto medio orientale. La Russia è stato un partner importante per la Turchia, un partner importante soprattutto a livello economico ed energetico. La rottura delle relazioni alla fine del 2015 ha portato delle gravi conseguenze a livello economico. Ricordiamo le sanzioni russe ancora in vigore. Questo ha significato un calo dell'interscambio commerciale, un calo dell'export della Turchia verso la Russia, importante mercato per i prodotti tessili, per i prodotti alimentari, per i macchinari. Ricordiamo che la Turchia ha coperto una parte dell'import russo dopo che l'Europa ha messo le sanzioni in occasione della crisi ucraina, quindi un partner importante. La Turchia però ha risentito delle sanzioni, in tutti i settori, non da ultimo nel settore turistico. Il paese, la penisola anatolica è meta importante, era meta importante per i russi, per le vacanze russe. Sì. Diciamo che in un contesto medio orientale di forte deterioramento, di forte crisi, la Turchia si è resa conto di non poter giocare un ruolo di forza duro nei confronti dello Stato russo. Vorrei ricordare inoltre che sono molto importanti le relazioni energetiche. Sì. La Turchia importa oltre il 60% del suo fabbisogno di gas proprio dalla Russia attraverso la pipeline sottomarina Blue Stream. Sì. Allora, Valeria Talbot, senior researcher all'ISPI, vi sono un po' di domande al 349-238-6666, tra tutte direi che Tonio va dritto al punto. Una possibile uscita dalla Turchia dalla NATO è possibile secondo lei? Quella domanda viene posta in questo modo da Tonio perché alla fine la NATO, gli Stati Uniti in particolare, hanno detto alla Turchia: attenzione, carissimo Erdogan, tu fai parte della NATO, non puoi flirtare in questo modo col grande nemico Putin. E mi si scuderà se banalizzo estremamente quello che è stato invece un linguaggio diplomatico molto più in punta di fioretto. Valeria Talbot, è d'accordo? Si sta creando un out-out per la Turchia? Guardi, io lo inserirei in un contesto più ampio. Negli anni precedenti le buone relazioni della Turchia con la Russia non sono andate ad inficiare in alcun modo il rapporto che la Turchia ha con gli Stati Uniti all'interno della NATO. Quindi in questo momento non è il tentativo di riavvicinamento con la Russia che potrebbero mettere in crisi il rapporto con la NATO. Sono altri i dossier aperti. Il fatto innanzitutto che nella crisi siriana Turchia e Stati Uniti, pur combattendo lo Stato islamico, hanno delle posizioni divergenti sul futuro dei curdi siriani, questo è il primo elemento. Il secondo elemento è dato dalle forti tensioni per il caso Gülen, il fatto che il Fethullah Gülen, considerato additato dalla Turchia come il grande orchestratore del fallito golpe, si trovi negli Stati Uniti dalla fine degli anni 90 e la Turchia sta chiedendo a gran voce l'estradizione di Gülen, contro cui è stato fatto un mandato di arresto internazionale. Gli Stati Uniti in questo momento appunto hanno risposto che valuteranno e prenderanno in considerazione tutte le prove contro Gülen. Quindi sono questi altri dossier che potrebbero mettere in crisi i rapporti tra Turchia e Stati Uniti, a mio avviso più che il riavvicinamento con la Russia. Certo. Intanto al 349-238-6666, dottoressa Talbot, mi faccia fare un passo indietro, non è materia sua ma resti con noi, perché all'inizio di Nessun Luogo Lontano abbiamo parlato di Libia e sono arrivati un po' di messaggi, forse un filo di ritardo, forse necessitavano di riflessioni, perché complicata è la situazione libica. C'è chi, come Claudio da Torino, dice Berlusconi aveva ragione a non volere la guerra Gheddafi, poi in realtà Berlusconi si accodò a Sarkozy immediatamente per non perdere il treno dal punto di vista politico, se ci ricordiamo bene come andò in quel 2011. Poi un altro ascoltatore che dice: mi domando se abbia senso parlare di Libia, le Libie sono tre, Cirenaica, Tripolitania e poi Libia meridionale, solo da qui si può ripartire o no, si chiede poi retoricamente è stato sottolineato sia da Varvelli direi che da Roberto Buongiorni. 349-238-6666 vale sia per gli sms che per i WhatsApp, Twitter Nessun Luogo 24, Jumpaz, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Abbiamo l'informazione finanziaria, sì, poi torniamo a parlare anche dei sviluppi, delle conseguenze economiche e finanziarie di questo riavvicinamento, questo valzer a due, Mosca-Ankara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Allora, ben ritrovati, questo è Nessun Luogo è Lontano, seconda parte del programma. Stiamo tentando di analizzare quelle che sono le conseguenze, o che saranno meglio, le conseguenze di questo rinnovato accordo, rinnovata amicizia. Il termine amico lo hanno usato loro stessi, i protagonisti di questo incontro, ieri a San Pietroburgo, Erdogan e Putin, i due leader, quello turco e quello russo, si sono promessi reciproco aiuto su alcuni dossier, grazie a Valeria Talbot, ricercatrice dell'ISPI, e responsabile del programma per il Medio Oriente e il Mediterraneo, stiamo comprendendo che vi sono alcuni dossier un pochino più caldi, un pochino più sensibili, altri temi sui quali, come dire, sia l'Europa sia gli Stati Uniti possono bypassarli, possono sorvolare sopra, anche se Ankara sta usando toni piuttosto forti, tanto che lancia quasi un ultimatum agli Stati Uniti dicendo dovete consegnarci Gülen, che è questa figura carismatica e stramilionaria che in passato era un grande alleato di Erdogan e che, secondo appunto la tesi del presidente turco, sarebbe il grande organizzatore del fallito golpe. Però Valeria Talbot, e su questo la vorrei sollecitare, esiste un altro dossier che non abbiamo ancora citato, che forse non è fondamentale adesso, forse non riguarda esattamente i rapporti con Mosca, ma è sicuramente fondamentale per un rilineamento o un ingresso della Turchia in Europa, di cui si parla da tanto, che è il dossier immigrazione. Perché Ankara continua a usare quegli aiuti che l'Europa sta dando appunto alla Turchia come formidabile leva politica, no? Per dire attenzione, perché se no o mi liberalizzate i visti o mi date quello che dico io, oppure qui partiranno frotte, orde di migranti pronti a invadere, tra virgolette, l'Europa. È d'accordo? Il dossier immigrazione rimane comunque fondamentale? Il dossier migrazione rimane chiave nelle relazioni tra Turchia e Unione Europea in questa fase. La Turchia cerca in questo caso di fare la voce grossa con l'Europa. Fatto sta che in sostanza il governo turco deve ottemperare a dei criteri, a un percorso ben preciso su cui c'è stato un accordo con l'Unione Europea, al termine del quale la Turchia potrà ottenere la liberalizzazione dei visti. Liberalizzazione che ancora non c'è stata perché proprio alcuni criteri non sono stati soddisfatti da Ankara. E questi riguardano anche l'applicazione di una legge antiterrorismo che la Turchia non vuole in questo momento. Quindi il dossier rimane importante ma anche delicato. La Turchia cerca di mettere l'Europa con le spalle al muro, ma non credo che sia questo il linguaggio che bisogna parlare con l'Unione Europea in questo momento. Grazie mille a Valeria Talbot, responsabile del programma per il Medio Oriente e il Mediterraneo dell'ISPI. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi, grazie. Allora, vi abbiamo raccontato dei rapporti non solo con Mosca, non solo con l'Unione Europea, con Bruxelles, ma anche con Washington, con gli Stati Uniti, ed è lì che adesso andiamo. Vai. Hey, his leg looks broke. Look at his leg. I suoni drammatici che avete sentito erano quelli dell'uccisione di Freddie Gray. Era l'aprile del 2015, il giovane era stato fermato dalla polizia nel quartiere Sandtown di Baltimora e poi morì per una lesione alla spina dorsale. Perché partiamo da quegli eventi vecchi più di un anno? Perché il Dipartimento di Giustizia americano ha da poco pubblicato un rapporto in cui per la prima volta, e forse storicamente, ammette un uso eccessivo della forza e una discriminazione nei confronti della popolazione nera afroamericana, appunto in alcuni episodi di cronaca avvenuti negli Stati Uniti. E in questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano tenteremo di fare il punto non soltanto sul significato di questo rapporto del Dipartimento di Giustizia americano, ma anche sul racconto e sulla narrazione che è stata fatta di questi tragici episodi di cronaca. Quanto con quanti stereotipi, meglio, viene raccontata la questione razziale. Intanto do il mio benvenuto e il buongiorno al professor Stefano Lucconi, che insegna storia degli Stati Uniti all'Università di Firenze. Buona giornata, professor Lucconi, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Grazie per essere con noi, grazie per commentare questo storico, lo chiedo a lei, è così il rapporto del Dipartimento di Giustizia? È la prima volta che c'è una missione di colpa o ce ne sono state altre e a noi sono sfuggite o non sono state sufficientemente raccontate? Dunque, è storico nella misura in cui ha riscontrato una sistematica violazione dei diritti civili, soprattutto degli afroamericani, da parte delle forze di polizia di una città specifica. Altri rapporti esistono, ne è stato fatto uno per Ferguson, ne è stato fatto uno per Cleveland, nelle città dove recentemente si sono avuti questi episodi veramente terribili, perché dal 1991 il Dipartimento di Giustizia ha il potere di condurre indagini sull'operato della polizia. Non bisogna dimenticare che gli Stati Uniti sono un paese con una struttura federale, quindi le forze di polizia non rispondono direttamente all'amministrazione federale, ma rispondono alle amministrazioni locali. Sì. Professor Lucconi, che cosa può cambiare però questo rapporto? Cioè, può significare un precedente rispetto all'analisi di altri casi? Il rapporto può cambiare nella misura in cui verranno prese in considerazione le sue conclusioni, ovvero sia nella misura in cui le singole amministrazioni municipali e quindi i singoli corpi di polizia eviteranno il riproporsi di queste situazioni che sono state attribuite, uno, a una mancanza di adeguata formazione da parte delle forze di polizia, due, alla mancata supervisione da parte degli ufficiali sui poliziotti che presidiano le strade, e in ultima analisi alla politica di tolleranza zero che ha provocato tutti questi morti. Professor Lucconi, stia con noi perché tra poco andiamo in diretta a New York, dove c'è un caro amico, un collega, Alfredo Bini, un fotogiornalista che quasi per caso in realtà si è trovato a lavorare su questo tema, ma poi ce lo racconterà meglio lui e ci aiuterà a capire quanto lo stereotipo nella narrazione della cosiddetta questione razziale è presente. Una cosa è certa, vi sono delle cose che non sono forse sufficientemente raccontate, e spulciando in un po' di siti proprio questa mattina, Silvia Malnati ad esempio è riuscita a trovare alcuni dati che sono molto interessanti e vorrei che commentassimo insieme, ad esempio quelli che raccontano della disparità di ricchezza fra le due comunità. Secondo un'analisi dei dati dalla Federal Reserve a cura di Demos, i bianchi in America deterrebbero più dell'88% della ricchezza, appunto, degli Stati Uniti, pur essendo il 64% della popolazione. La crisi economica, quella devastante a partire dal 2008, sarebbe stata percepita economicamente molto più dalla popolazione afroamericana che dai bianchi. Tra il 2007 e il 2010, secondo gli Urban Institute, la ricchezza delle famiglie nere è diminuita del 31% rispetto all'11% di diminuzione delle famiglie bianche. Capitolo droga, per esempio. E la popolazione bianca farebbe più uso di droga rispetto ai neri, tuttavia i neri vengono arrestati per possesso di droga 3 volte più spesso rispetto alla popolazione bianca. Questa è la fonte di questa ricerca, la Substance Abuse and Mental Health Service Administration. Questi sono alcuni degli esempi che raccontano, ma vi sono episodi di cronaca come ad esempio un tizio, un cittadino afroamericano, sempre a Baltimora, fermato 30 volte in 4 anni dalla polizia, appunto, tanti casi che la cronaca non ci restituisce. Professor Lucconi, c'è un sommerso di questo fenomeno? Cioè, alla fine noi giornalisti raccontiamo la punta dell'iceberg, ma c'è un fenomeno gigantesco in questa strana America che pare così difficile da raccontare. C'è un divario fortissimo tra America bianca e America nera. C'è una difficoltà economica degli afroamericani che emerge chiaramente dai dati che ha citato. Si può aggiungere il fatto che oggi, a recessione ormai superata, gli afroamericani continuano ad avere un tasso di disoccupazione che è il doppio rispetto a quello dei bianchi. Però questo sommerso piano piano sta venendo alla luce grazie anche al ai media. Moltissimi di questi episodi sono stati ripresi con dei video e quindi è stato possibile porre all'attenzione non soltanto dell'autorità giudiziaria ma anche dell'opinione pubblica quanto avviene in termini di tensioni tra forze di polizia e comunità afroamericana. Un altro dato significativo, sempre riferito a Baltimore dal rapporto che citava all'inizio, è proprio l'accanimento contro gli afroamericani. Sono stati identificati 410 persone che negli ultimi 5 anni sono state fermate più di 10 volte dalle forze di polizia. Ebbene, il 95% di questi 410 fermati sono afroamericani, quando la popolazione nera di Baltimore è intorno al 60%. E questo sicuramente, come dire, dà un'idea, una dimensione di quella che è l'attitudine delle forze dell'ordine statunitensi, che quel rapporto del Dipartimento di Giustizia americano riferito ai casi di Baltimora forse sta iniziando a scoperchiare. Certamente un ruolo attivo e importante lo possono fare i giornalisti, lo possono fare i reporter, lo possono fare i fotografi. Alfredo Bini, fotogiornalista indipendente, è italiano ma vive a New York ormai da 3 anni. Alfredo, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Ciao, buongiorno Don Paolo, grazie mille per l'invito. Grazie a te della disponibilità. Alfredo Bini, guardate i suoi lavori su alfredobini.com, è rappresentato dall'agenzia Cosmos. E stavo dicendo prima, Alfredo, non so se eri già in linea e potevi sentirmi, che quasi per caso ti sei trovato a lavorare su questo progetto, che è un progetto per te a lungo termine. Sei partito cercando di raccontare gli studenti statunitensi e poi alla fine però sei arrivato al Black Lives Matter. Come è andato questo percorso? È andato esattamente così. Ho iniziato un progetto sul movimento studentesco americano e poi mi sono reso conto che molti studenti appunto stavano partecipando attivamente a quelle che erano le manifestazioni di Black Lives Matter, Stop Mass Incarceration, e quindi diciamo ho incontrato un po' di persone che si stavano occupando di questa questione relativa appunto alla percezione del razzismo negli Stati Uniti, piuttosto che gli omicidi della polizia o la brutalità della polizia o l'incarcerazione da parte della popolazione nera nelle varie carceri del paese. E quindi sono nati degli spunti interessanti da questo punto di vista. Ecco, Alfredo, tu stai facendo un lavoro fotografico che fra l'altro ho potuto vedere perché me l'hai mandato al volo ieri notte. È un lavoro fatto di incontri, fatto di ritratti e fatto di lunghe conversazioni con personaggi che ti hanno restituito una fotografia della società americana che poi è anche un po' difficile da raccontare. Però sei fotografo e ti chiedo una sintesi di questi lunghi decine di incontri che stai facendo con giovani, con attivisti, con giornalisti, questa questione razziale. La cosa che mi ha colpito di più durante il mio lavoro è stato diciamo l'aspetto che è emerso sulla questione razziale, nel senso che per molte persone non è una questione razziale ma una questione economica. Cioè, questo sistema economico statunitense trae vantaggio dal fatto che la popolazione nera in qualche modo sia prevaricata dall'altra, dalla popolazione bianca. E questo lo si ottiene sia con l'operazione della polizia, con il mass incarceration. Ci sono attualmente 2,5 milioni di persone, all'incirca le stime parlano di 2,5 milioni di persone in carcere. La maggior parte di loro sono persone di colore e si raggiungono cifre vicine a quelle che erano, diciamo, il numero degli schiavi nell'Ottocento. Queste persone danno anche un contributo lavorativo importante a quella che è la società americana, perché le carceri sono società amministrate da società private che appaltano lavoro spesso a multinazionali, lavoro che è sottopagato, che non ha, diciamo, i diritti spesso minimi di un lavoro come qui negli Stati Uniti. E quindi più che una questione razziale spesso è vista come una questione economica, e anche l'aspetto della polizia ha un suo risvolto, diciamo, legato alla proprietà, alla salvaguardia della proprietà, perché chi argomenta su questo aspetto dice che la polizia è stata ideata per proteggere quello che era la proprietà dei bianchi durante il periodo, diciamo, della schiavitù. Sì. E questo è un concetto economico, che è un concetto mentale che ancora oggi si ripercuote nella mentalità delle persone. Alfredo Bini, stai con noi, fotogiornalista in diretta da New York, anche lei, professor Luconi, perché su questo aspetto qua vorrei sollecitarvi ancora subito dopo l'informazione sul traffico. Nessun luogo è lontano. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. Buona giornata e ben ritrovati ancora una volta. Questo è Nessun Luogo Lontano, l'ultima pagina dedicata alla questione razziale degli Stati Uniti, al rapporto tra il potere e l'uso della forza da parte della polizia e la popolazione, quella afroamericana. I numeri denunciano certamente uno squilibrio, lo denuncia anche il Dipartimento di Giustizia americano, che per la prima volta punta il dito sui fatti di Baltimora, di cui abbiamo sentito anche un drammatico estratto audio. Frammento audio risalente a più di un anno e mezzo fa. Fondamentalmente il Dipartimento di Giustizia dice c'è stato un utilizzo eccessivo della forza, c'è stata una segregazione, un atteggiamento sbagliato e eccessivo verso appunto la popolazione nera statunitense. 349-238-6666 per commenti e domande sia SMS che WhatsApp. Ad esempio un ascoltatore dice: ma Obama non è afroamericano? Sì, è afroamericano, ma lo squilibrio della società statunitense lo si vede per esempio andando a vedere a Baltimora, che ha una popolazione mista e bianca e afroamericana, pur avendo una grossa percentuale di neri nelle istituzioni, quindi anche nella leadership politica, in realtà vive ancora in quartieri separati. Ci sono i quartieri bianchi e i quartieri neri, e questo evidentemente va in qualche modo a suggellare, a consacrare una situazione che è ben lungi dall'essere risolta, che è quella che sta fotografando Alfredo Bini, che è un amico, che è un fotogiornalista che sta a New York e che ci sta aiutando a capire il professor Luconi, che insegna storia degli Stati Uniti all'Università di Firenze. Professor Luconi, brevemente, su questa sollecitazione che ci viene dal collega Alfredo Bini, non è una questione razziale, è una questione economica. Al sistema economico statunitense, alla leadership bianca, sintetizzo, fa comodo avere una popolazione nera in posizione di subalternità. È d'accordo o è, come dire, un po' troppo manichea? Sì, non è troppo manichea. Ci sono numerosi studi sociologici che equiparano la incarcerazione di massa oggi a una riproposizione della schiavitù prima del 1865, cioè l'identificazione di una minoranza identificabile come diversa dalla maggioranza bianca, facilmente sfruttabile. La stessa segregazione residenziale a cui lei alludeva prima è una dimostrazione di quanto pesi l'economia. Cioè Baltimore non è segregata da un punto di vista razziale perché è imposta dalla legge, in quanto dal 1964 questo non è più possibile, ma semplicemente perché i neri sono concentrati nelle zone più degradate perché non hanno un reddito sufficiente per andare a vivere nelle zone dove invece i bianchi possono spendere, in quanto il valore delle unità immobiliari è molto più alto. Chiarissimo. E in qualche modo anche la geografia urbana ci restituisce questa immagine, questa fotografia. Al 349-238-6666 un ascoltatore dice: però bisognerebbe vedere in proporzione quante condanne penali ci sono a carico della popolazione bianca e a carico di quella nera, per fare un confronto poi con i fermati. Io cito un dato, poi magari professore, se vuole aggiungere, anche Alfredo Bini da New York, se te la senti, puoi aggiungere un commento. A parità di crimine, i neri ricevono condanne alla reclusione più lunghe del 19,5% rispetto ai condannati bianchi, e questa è una ricerca della US Sentencing Commission, sono dati del 2013. Professor Luconi, non so se vuole aggiungere qualcosa. Anche qui si riflette l'aspetto economico, non è tanto il pregiudizio razziale delle giurie, è il fatto che gli imputati neri non si possono permettere buoni avvocati, quindi sono costretti a ricorrere a avvocati d'ufficio o avvocati privi di esperienza o alle prime armi in tribunale, e quindi poi finiscono per scontarne penalmente le conseguenze. Chiarissimo. Allora, 349-238-6666 sono gli ultimi minuti di trasmissione. Stiamo analizzando e stiamo commentando questo rapporto del Dipartimento di Giustizia. Che significato può avere questo j'accuse appunto del Dipartimento di Giustizia verso il comportamento della polizia? Nella fattispecie stiamo parlando della situazione di Baltimora. Fatemi però tornare a New York, dove c'è Alfredo Bini, che vi dicevo sta facendo un lavoro di lungo termine su quella che è partito come lavoro sugli studenti e poi è arrivato insomma alla fine al Black Lives Matter. Ti ho chiesto prima, Alfredo, ma lo so che è difficile. Io ho visto un po' dei ritratti che hai fatto, ho visto le situazioni che hai seguito, sei fotografato, sei entrato nelle case, hai fatto interviste, sei stato in strada durante le proteste. Riesci a sintetizzare una fotografia che ci raffiguri la società americana? So che è difficile, ma alla fine è quello a cui punta il fotografo, no? Grande sintesi in una sola immagine. T'ho messo in crisi, lo so, che ti ho messo in crisi, dai. ancora non sono arrivato a quello stato, diciamo, di illuminazione. Quindi io sono rimasto molto colpito l'anno scorso quando ho partecipato a uno dei primi incontri che poi ho fotografato, che venivano organizzati appunto dal comitato che avrebbe poi portato avanti quelle che erano le proteste di ottobre di Stop Mass Incarceration e Black Lives Matter, alle testimonianze delle vittime delle vittime di omicidio ingiustificato da parte della polizia, le storie che raccontavano. Quindi ho cercato in qualche modo di fotografarli, di rendere giustizia a quelli che erano i drammi che queste persone raccontavano. Un caso su tutti è stato quello di quella bambina di Detroit che fu, diciamo, uccisa dalla polizia mentre cercavano di arrestare suo zio che se ne stava al secondo piano. È questo, diciamo, le loro testimonianze sono state molto, per me, molto, molto impattanti, diciamo, su quello che era la mia aspettativa, perché francamente non mi aspettavo un tipo di comportamento e società che rifletteva appunto quella realtà lì, insomma. Era una cosa a cui non ero pronto. Per quanto riguarda l'immagine che sintetizza tutto il lavoro, francamente ancora non ce l'ho. Spero di avercela il prima possibile, perché vuol dire che a quel punto magari sarò in un buon, diciamo, a buona strada, ecco, certo. Del lavoro che sto portando avanti. Grazie mille, Alfredo Bini. Lo ricordo il sito alfredobini.com, fotogiornalista indipendente, adesso di base a New York. In bocca al lupo, grandissima a questo punto, per questo tuo lavoro. Buona giornata e buon lavoro, Alfredo. Grazie. Grazie a voi. Allora, e saluto anche il professor Luconi, a meno che non abbia una chiosa, ma mi sembra che... No, una piccolissima chiosa rispetto al messaggio che avete ricevuto in termini di immagine. Sì. La presidenza di Obama non è l'immagine degli Stati Uniti. Il fatto che ci sia il primo presidente afroamericano non significa che la questione razziale sia stata superata. Ecco, fra l'altro, professore, le sta facendo sia di Obama a livello nazionale, sia del sindaco, della sindaca, come si direbbe con un linguaggio corretto in termini di genere, di Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, che è un'afroamericana, è quella di aver avuto sempre un approccio post-razziale, cioè di non fare la questione razziale il centro dei loro programmi. E la comunità nera si è illusa che col primo presidente nero o col primo sindaco nero di Baltimore la questione razziale sarebbe stata superata. In realtà non è così, e quella rabbia della comunità afroamericana è anche il risultato di questa discrasia che c'è tra le speranze, le aspettative che sono state proiettate a livello nazionale su Obama e a livello locale su Rawlings Blake. Poi sono le speranze che sono andate in fumo. Ecco, professore, fra l'altro, mentre lei parlava e ci raccontava questa cosa, al 349-238-6666 arriva un altro messaggio che dice: ci parlano degli Stati Uniti come modello di società multirazziale, ma sentendo quello che dite mi sembra non funzioni, ognuno ha i suoi limiti. In effetti, come dire, parlare di grandi laboratori virtuosi, mi scuso per il termine laboratorio, ma si è usato anche per la Francia, per esempio, lo si è usato per certe zone attorno a Bruxelles. Laboratori virtuosi è veramente difficile trovarli in questo momento. Non so se è d'accordo col pessimismo dell'ascoltatore, professore. No, concordo. Purtroppo, culturalmente, questo è un retaggio della Guerra Fredda. In Italia e in Europa occidentale siamo abituati a vedere gli Stati Uniti come un modello di società quasi perfetta. In realtà non è così. La società statunitense è nata come una società di bianchi maschi per bianchi maschi, e da questo pattern iniziale si sta allontanando con grandissima difficoltà. Grazie mille al professor Luconi per questa triste analisi sulla fotografia, sulla situazione della società statunitense. Ci torneremo, grazie mille intanto, lo ricordo, insegna storia degli Stati Uniti all'Università di Firenze. Buona giornata. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. E intanto fatemi fare un ennesimo passo indietro, torno alla primissima pagina di Nessun Luogo Lontano, che era la battaglia per Sirte. Le agenzie stanno ormai battendo ripetutamente che un 70% della importante città sulla costa libica sarebbe stata liberata, e leggo anche di bandiere bruciate nere, le bandiere nere dell'ISIS. C'è qualcuno che ritwitta truppe speciali italiane già presenti sul territorio. Abbiamo parlato della presenza straniera e lo avete letto probabilmente anche sui giornali quest'oggi, appunto per questa battaglia importantissima di Sirte. E mentre c'è ancora qualcuno che continua a messaggiare, a mandarci messaggi sia SMS che WhatsApp al 349-238-6666, la questione americana vedo che ha risvegliato parecchio interesse. C'è ad esempio un ascoltatore o ascoltatrice che sottolinea come nella letteratura che lei legge, lei, ci sono i bianchi. C'è anche una fiorente letteratura nera, quello per carità. Vi ricordo che al 349-238-6666, ma anche Twitter, Giampaz, Nessun Luogo 24, la pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, potete suggerire tematiche poco raccontate che vorreste fossero trattate. C'era un tema bellissimo, ve lo anticipo perché lo stiamo preparando, molto molto interessante, molto poco raccontato: un pugno di scogli disabitati contesi nel Mar Cinese, ma questa storia ve la racconto domani. Adesso i titoli di coda. Con i quali ringrazio voi per essere stati all'ascolto, Silvia Mannati, Leonora Aragona e Antonio Taglia, che hanno scritto e confezionato con me anche questo giro attorno al mondo di quest'oggi, Andrea Roccabella che ci ha messo la musica e il ritmo giusto. L'appuntamento è per questa sera ore 21 per la replica, domani di nuovo ore 16, ultima puntata della settimana, Nessun Luogo Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.